Il punto di Stefano Folli. Sul piano politico e mediatico non c'è dubbio, Renzi ha vinto a mani basse nel suo partito. Gli oppositori, abituati ai riti felpati e diciamo pure al vecchio immobilismo, sono stati strapazzati. Gli anziani o si allineano o scompaiono. Il PD decide in modo netto. È il nuovo stile della casa, con l'occhio rivolto agli elettori assai più che agli equilibri politici. In più il leader fa anche il lavoro dei giornalisti, confeziona loro un bel nome per il nuovo sistema elettorale, l'Italicum. Efficace, breve per stare nei titoli, insomma perfetto. Ma adesso bisogna verificare due cose. La prima sono i dettagli della nuova proposta di legge elettorale. L'impianto è noto, compresa la novità del ballottaggio fra coalizioni, ma vari punti sono da precisare e non è poco. La seconda riguarda la tenuta del progetto in Parlamento, dove è alta la probabilità che venga chiesto il voto segreto. Renzi dice che tutto deve stare insieme, il modello elettorale e il disegno costituzionale che riguarda fra l'altro il Senato. Sarà il momento della verità.